non ci ha dato sapere naturalmente dove si trova di preciso Abdulrahman, il cittadino afghano convertito al cristianesimo che per scampare alla persecuzione religiosa di cui era oggetto nel suo paese ha cercato asilo nel nostro. A rigor di logica, proprio a rigor di logica, dovrebbe stare in un CPT, visto che qui da noi una normativa precisa sul diritto d'asilo non c'è, i richiedenti vengono assimilati per prassi agli immigrati clandestini e i CPT sono appunto le istituzioni in cui tale risma di gente va trattenuta sotto sorveglianza finché le autorità competenti non abbiano definito la loro posizione. Ora tutti sappiamo che chi finisce in quei posti di norma viene rispedito in patria senza se e senza ma, e che questa è stata di fatto la sorte di una quantità incredibile di poveracci che in Italia cercavano protezione e accoglienza, ma almeno a lui forse questo destino sarà risparmiato. L'uguaglianza è una cosa di sinistra, da noi fino a scrutinio contrario comanda la destra, Abdulrahman dopo tutto a Roma è arrivato sulla comandazione del Papa, a bordo di un aereo del governo, e l'asilo gli è stato concesso in giornata con delibera espressa del Consiglio dei Ministri. Era l'unico modo, dicono, per salvargli la pelle, e che abbia salvato la pelle siamo tutti felici, ma la cosa non esclude che il trattamento di cui ha fruito sia di tipo, diciamo pure, privilegiato, di fronte al quale quello che l'Italia riserva agli esuli e ai perseguitati normali si rivela ancora più scandaloso. Ci troviamo di fronte a un caso patente di applicazione del noto criterio dei due pesi e delle due misure e speriamo soltanto che i funzionari che lo hanno dovuto gestire un filo di vergogna l'abbiano provata. Diciamo i funzionari perché quelli che stanno più in alto di loro, come si sa, alla vergogna sono assolutamente refrattari. Suppongo che persino il nostro ministro degli esteri abbia potuto cogliere la stranezza di questo caso. L'asilo si concede normalmente a chi è perseguitato da un governo o da un regime che si presuppongono ostili, o che se non ostili sono comunque riluttanti a quei principi di democrazia che dovrebbero tutelare senza eccezioni tutti gli esseri umani. Il governo dell'Afghanistan non appartiene a questa categoria, è un governo alleato se non amico, visto che in pratica è stato insediato da un intervento militare dei nostri alleati americani nel dicembre 2001 e per regolare accordo del 5 gennaio successivo consente lo stazionamento nel proprio territorio di una forza multinazionale di sicurezza sotto comando NATO per un totale di 4.500 effettivi, di cui 600 italiani, da sommarsi ai 20.000 americani che c'erano prima. E accanto alle forze armate in Afghanistan operano organizzazioni e consulenti occidentali di ogni tipo. Una missione italiana, per esempio, sta lavorando al riordino del sistema legislativo. Di più, invece si sono svolte regolari elezioni presidenziali e politiche, il cui avvenuto svolgimento è stato indicato da molti governi, compreso il nostro, come una prova lampante del fatto che l'intervento militare così inviso a quei confusionari di pacifisti, dal punto di vista del progresso democratico, pagava e come. E vi è stata proclamata una Costituzione, che prevede tra l'altro la piena libertà di religione e di culto. Va ben che il governo non controlla tutto il territorio e che non è escluso che nelle parti non controllate ne succedano di ogni. Vi si produce per esempio la maggior parte dell'oppio disponibile sul pianeta. Ma diamo tempo al tempo, si dice, e vedremo che anche tra quelle selvagge montagne la democrazia liberale celebrerà un altro dei suoi inevitabili trionfi. Almeno così ci hanno detto. Almeno così ci hanno detto raccontandoci evidentemente delle gran balle, visto che non è il caso di avere soverchia fiducia sul livello di democrazia di un paese che impedisce ai suoi sudditi, pena al capestro, di esercitare un'opzione ideologica tanto innocua quanto quella di cambiare religione. E nell'ambito per di più delle cosiddette grandi religioni monoteiste che, come sanno tutti dai tempi di Melchisedec giudeo di Natam il Saggio, sono in sostanza la stessa cosa. E in quella ovvia assenza di democrazia e liberalità È inevitabile chiedersi cosa ci stiano a fare tutti i militari e i civili che ci abbiamo mandato con la scusa di instaurarla e difenderla, e non sono stati capaci neanche di richiamare le autorità locali a un minimo di rispetto dei suoi principi di base. E allora, magari non avevano del tutto torto quei rompicoglioni che sostenevano nel 2001 come nel 2003 che la democrazia non si esporta in quel modo. E non si capisce neanche perché del rientro in patria del contingente italiano dall'Iraq un poco, sia pure nel più avattato e prudente nei modi, si riesca a discutere, mentre sulla permanenza sine die a Kabul sembrano tutti d'accordo, Unione compresa. Il povero Abdulrahman, che adesso non rischia di morire martire della sua fede e può leggersi a suo piacere la Bibbia, e pazienza se la Chiesa in Italia ha sempre consigliato di non affrontare quel difficile testo e di farselo semmai spiegare dai preti, il povero Abdulrahman non deve comunque credere che i suoi guai siano definitivamente finiti. Dovrà presto sperimentare le dubbie delizie di una società che rifiuta negli auspici dei suoi governanti qualsiasi sviluppo multietnico e pluriculturale. Per ora comunque ha avuto lo strano privilegio di aprire una contraddizione nel suo paese e di venire impiegato per chiuderla nel nostro. Magari si sarà accorto anche lui che per chiuderla davvero i suoi protettori non si sono poi sforzati troppo, visto che gli è bastato come al solito metterci una toppa, una di quelle che per chiudere un buco da una parte ne spalancano un altro più in là. Ma pazienza, non si può avere tutto. Nella fiduciosa attesa del primo musulmano cui il governo italiano concederà l'asilo politico perché a casa sua gli vengano negati i più elementari diritti, in Israele, per citare un paese a caso, succede spesso, e in questa fiduciosa attesa noi gli porgiamo comunque il nostro benvenuto più caloroso.